Esercizio 2. Ascolta e ripeti ciascuna coppia dell'esercizio 1 da sinistra a destra e successivamente ascolta e ripeti le coppie da destra a sinistra. Seno, senno. Pane, panne. Cane, canne. Sano, sanno. Ceno, cenno. Giovani, Giovanni. Sono, sonno. Tono, tonno. Bene, benne. Pena, penna. Dona, donna. Senno, seno. Panne, pane. Canne, cane. Sanno, sano. Cenno, ceno. Giovanni, giovani. Sonno, sono. Tonno, tono. Benne, bene. Penna, pena. Donna, dona.